A bordo campo di Dario Ricci. Beh, amici da bordo campo, conoscete bene quali sono i singulti e le sofferenze del nostro calcio in questa estate orribile del 2014, davvero difficile immaginare prospettive di sviluppo ragionevoli per la nostra pedata, ma per fortuna, in attesa che anche il nostro calcio ci ridia le soddisfazioni cui in passato ci ha abituati, ci sono altri sport, anche altri sport di squadra, che tengono alto il tricolore e ai massimi livelli. È quindi un grande piacere per me qui a bordo campo ospitare oggi il CT della nazionale azzurra di pallanuoto maschile, Sandro Campagna. Benvenuto, coach. Un saluto carissimo a tutti gli ascoltatori di Radio 24. Direi che forse per una volta si potrebbe chiamare bordo piscina la vostra trasmissione. Direi che accolgo volentieri il suggerimento, visto che tra l'altro siamo in tempo anche di europei di nuoto e soprattutto visto anche l'impresa che avete fatto a Budapest, no? Lo ricordiamo, un bronzo europeo che pesa parecchio. La frase retorica e banale è dire che vale quanto un oro, ma adesso andiamo anche a capirne le ragioni, coach. La prima è che laddove appunto in primis il calcio fatica a ragionare in termini di rinnovamento, scoperta di talenti, costruzione di nuovi cicli vincenti, la sua nazionale tutto questo lo fa e nell'ombra. Ci spieghi un po' come nasce questa nuova Italia della pallanuoto? Beh, innanzitutto è un bronzo che pesa questo agli europei, perché tutti sanno che le squadre più forti al mondo sono le squadre europee, soprattutto quelle slave, Ungheria, per cui praticamente dal punto di vista tecnico l'europeo vale un mondiale, un'olimpiade, anzi forse l'ottava, la nona, la decima dell'Europa è molto forte, è molto più forte delle altre squadre del mondo. E quindi assolutamente ha un peso di natura tecnica, ha un maggiore peso in quanto siamo all'inizio di un nuovo ciclo di costruzione, perché insomma dopo aver toccato il fondo nel 2009 con i mondiali di Roma, ho aperto un nuovo ciclo dove nel 2010 abbiamo vinto la medaglia d'argento agli europei, 2011 l'oro ai mondiali, 2012 la medaglia d'argento di Roma, con una squadra fortissima ma che ha raggiunto di Londra, scusate, ma che ha raggiunto a Londra e poi successivamente a Barcellona nel 2013 un'età media di 30 anni, per cui difficilmente tutti insieme potevano arrivare al top della forma a Rio de Janeiro dopo 4 anni. Per cui ho fatto una programmazione, ma una programmazione che non è partita quest'anno, la programmazione di questi giocatori è partita 5 anni fa, 6 anni fa, proprio nel momento più buio, proprio nel 2009, quando ho individuato proprio nei giocatori del 93, del 94, del 95 una generazione su cui investire. Ogni anno abbiamo fatto collegiali importanti, ogni anno li abbiamo fatti progredire, secondo appunto una progressione didattica di esercitazioni, ma anche di attività fisica neuromuscolare, per cercare di farli arrivare preparati nel momento in cui servivano. E a 19-20 anni abbiamo trovato 3, in questo caso gli europei, ma ce ne sono almeno altri 3 pronti ad entrare. Quindi ci abbiamo anche qualche per la squadra nazionale. Quindi questo è un grandissimo progetto che noi abbiamo fatto già da 5 anni. Ci abbiamo già anche qualche arma segreta a bordo vasca, allora, coach? Sì, ma devo dire che no, si tratta di programmazione, di pianificazione, di visione, insomma non soltanto avere una visione a breve termine, ma a medio e lungo termine. Abbiamo ottenuto anche risultati a breve termine perché i ragazzi sono già pronti, sono già bravi e quindi certo c'è stato un pizzico di inesperienza, però devo dire che la squadra ha giocato molto molto bene già sin dalla prima competizione importante, quali sono stati gli europei di Budapest. Tra l'altro con un gioco decisamente dispendioso, forse più di quello degli avversari, proprio perché lei punta molto sul concetto di velocità, tagli, movimento, grande dinamismo anche nella fase difensiva, laddove molte delle squadre dell'est, parlo io non da esperto ma da tifoso e da osservatore, molti di questi problemini se li risolvono col fisico. Esattamente, tant'è che ragazzi ho detto dopo la conquista della medaglia di bronzo dobbiamo aumentare la cilindrata del nostro motore, dobbiamo migliorare nostre prestazioni di natura fisica, muscolare, perché come hai detto giustamente, noi dobbiamo esprimerci al 120% in ogni partita, e fare 7-8 partite nel giro di 14 giorni è veramente dispendioso. Rischiamo alla fine di arrivare un po' corti. Non è successo a Budapest, perché abbiamo fatto anche una preparazione eccezionale sotto il profilo anche scientifico, e devo ringraziare per questo tutti i componenti del mio staff. Però è chiaro che quando gli avversari la mettono sulla fisicità, sulla staticità, noi dobbiamo fare qualcosa di diverso. Ecco, i movimenti, i tagli di cui parlavi sono proprio dispendiosi, sicuramente, ma assolutamente efficaci contro squadre del genere. Torniamo sul concetto di reclutamento. Ho letto in una recente intervista che addirittura lei è andato anche nelle scuole di alcuni di questi ragazzi per parlare con insegnanti, presidi, quasi fosse un secondo papà, no? Insomma, per cercare di non di sostituire, attenzione, la pallanuoto e l'allenamento allo studio, ma di riuscire a integrarli, proprio perché entrambi servono in vasca. Assolutamente, è un problema solo organizzativo, perché non è vero che se si fa lo studio non si può fare lo sport di alto livello, o viceversa. Io tantissimi anni fa, 30 anni fa, nella mia squadra ci sono tantissimi che hanno vinto anche Olimpiadi, ingegneri, dottori. Nella mia squadra di Siracusa, nell'Ortigia, ci sono fior di professionisti, perché hanno giocato in Serie A, per cui le due cose possono combaciare. Si tratta di organizzarsi, si tratta anche di stare vicino all'atleta. Sicuramente quando facciamo tanti collegiali, essendo appunto l'Italia molto lunga e dispersiva, e stanno fuori di casa tanto, di conseguenza possono fare del tante assenze, per cui è stata mia cura, mia e anche di altri componenti dello staff, parlare con i presidi, parlare con i professori, per capire innanzitutto se il ragazzo andava bene a scuola, se doveva fare qualche integrazione sul programma, qualche ora di in più di studio, noi lo lasciamo fare in collegiale, ma soprattutto capire le assenze, perché talvolta io ho rinunciato a dei collegiali a farli venire in collegiale proprio per permettergli la frequenza nella scuola, e questo spirito di collaborazione è stato recepito anche dai professori, che ringrazio, e quindi i ragazzi che molti di questi qua che hanno vinto la medaglia di bronzo adesso erano maturandi, hanno fatto l'esame di maturità qualche giorno prima, e quindi è sinonimo di grande organizzazione personale, individuale, ma anche da parte nostra c'è stato uno spirito collaborativo, uno spirito di venire incontro alle esigenze del ragazzo, perché crediamo che scuola e sport possono andare d'accordo, anzi aiutano sia l'uno che l'altro. Uno può essere un buon pallanuotista e può essere anche un buon ingegnere. Quindi si è trovato anche un po' a festeggiare magari un 8 in latino oltre a una palombella, diciamo. Esattamente, no, ci sono stati dei buoni voti all'esame di maturità, e questo sono molto contento. Ah, meno male, insomma, ragazzi promossi anche sotto questo punto di vista. Coach, devo dire in questo senso aiutato anche dalle regole del nostro campionato di pallanuoto, se non sbaglio abbiamo l'obbligo dei 5 italiani in campo, anche altre nazionali, seppur in altri sport, utilizzano queste misure che diciamo non contravvengono quella legge Bosman che poi è dilagata in tutto lo sport europeo. Ci sono i sostenitori, i detrattori, il tema è davvero troppo ampio, però insomma questa regola ad esempio l'ha aiutata anche a valorizzare questi talenti, prima nei club e poi in azzurro. Sì, assolutamente, bisogna stare attenti ad avere appunto equilibrio e rispettare le leggi europee naturalmente, però è anche vero che ci sono delle leggi che tutelano il vivaio nazionale. Quindi con il giusto bilancino si cerca di non fare delle contravvenzioni appunto di natura europea, ma nello stesso tempo cercare di tutelare i nostri ragazzi che appunto con sacrificio fanno ore e ore e ore di allenamento in piscina, e poi magari si vengono vanificati i loro sforzi delle loro famiglie, perché gli si mettono davanti degli stranieri o comunque dei giocatori non italiani, che magari fanno solo questo di mestiere, che hanno altri tipo di scelte, che fanno altri tipo di scelte. Non mi sembra giusto, perché proprio sì, è come tagliare un certo tipo di percorso ai nostri giovani. Si è trovato un giusto compromesso, i risultati si sono visti, perché questi ragazzi si prendono delle responsabilità durante le partite di campionato, hanno un alto minutaggio rispetto a prima, perché vi ricordo che nel 2008-2009, proprio quando sono arrivato io, ogni squadra aveva i migliori sette erano stranieri, gli italiani erano in panchina, facevano un minutaggio basso e soprattutto non mai tiravano le palle importanti in porta, non tiravano mai e non giocavano mai i minuti decisivi. Questa è una storia è una storia che mi sembra di aver già sentito da qualche altra parte. È così, purtroppo è così. Bisogna fare a volte delle scelte forse impopolari a livello politico, perché i dirigenti che vogliono vincere subito preferiscono andare a prendere un giocatore già fatto all'estero piuttosto che aspettare il giovane che cresca e maturi in Italia. E quei risultati poi sono che le squadre nazionali non hanno ricambi generazionali. Coach Campagna, ma perché tutto questo non funziona nel calcio? Lei da fuori che idea si è fatto? Perché ci sono tanti interessi economici, ci sono società che vivono facendo scouting soprattutto all'estero, no? E che vanno a prendere giocatori sconosciuti ai 17, 18, 16 anni, 18 anni che li fanno giocare e poi li vendono a fior di decine di milioni e campano così, e quindi potrebbero farlo nel mercato italiano. Evidentemente all'estero si acquista meno che in Italia, ci saranno più passaggi qua in Italia probabilmente, quindi non c'è il business, è tutta una questione di business a mio avviso. Non c'è il rischio che poi a ricaduta questo modello, e anche un po' la storia della pallanuoto che abbiamo rapidamente sintetizzato ce lo insegna, non trasbordi anche in altre discipline? Sì, io mi auguro infatti che questo modello, che giustamente sta avendo un eco molto positivo in Italia, tant'è che una radio importante come voi ha centrato l'intervista proprio su questo, ci sono stati giornali importanti come lei ha citato che hanno visto in questa progettazione un qualcosa che può essere lungimirante per lo sport italiano. Mi auguro che il modello sia quello nostro e non quello del calcio alla lunga, insomma, perché soprattutto per quegli sport dove la crisi economica sta dilagando e stiamo avendo dei grandi problemi, allora bisogna farsi venire delle idee per cercare di emergere comunque. Il calcio spesso rimane affascinato da questi modelli, tanto che poi prova a cooptare, no? chi li mette in campo. Ricordo ad esempio in passato il caso di Julio Velasco, il profeta del nostro volley, che ebbe anche una non soddisfacente, parere personale, esperienza nel mondo del calcio. Se il pallone dovesse chiamarla con qualche ruolo dirigenziale, sarebbe un canto di sirena che potrebbe ammaliare il suo orecchio, coach. Ma dal punto di vista professionale ci potrebbero essere aspetti interessanti da sviluppare nella crescita mia personale di professionista, diciamo, di gestore di risorse umane. Però non so quanto il calcio possa essere aperto, no? Sotto questo punto di vista, sta di fatto che il calcio è passione, il calcio è tifo, io tifo per la Juventus, per cui se dovesse chiamarmi la Juventus penso che il salto lo farei. Beh, allora riferiamo il messaggio e vediamo, anche perché poi lo stile con cui poi taglia certi atleti, diciamo, anche tenendo conto dell'età e di quanto hanno già dato alla causa, richiama un po' quello di alcune Juventus del passato. Ma non mettiamo troppo calcio a bordo vasca, io la terrei lì almeno fino a Rio 2016, perché c'è un oro olimpico da vincere, a Londra l'abbiamo sfiorato. L'ultimo che però ci siamo portati a casa è Barcellona 92, lei in quel pomeriggio era in acqua, no? Sì, è un ricordo meraviglioso, però non dobbiamo viverla con un'ossessione, dobbiamo vincere l'oro olimpico a tutti i costi. È una squadra giovane che deve avere dei sogni, uno di questi sogni è la medaglia d'oro olimpica, però come tutti i sogni vanno vissuti con leggerezza. Beh, direi che il Brasile è il paese adatto per trovarla questa leggerezza, visto mai che magari non ci porti su quello splendido gradino più alto del podio. Intanto in bocca al lupo a lei e ai suoi azzurri, e grazie a Sandro Campagna, commissario tecnico della Nazionale Azzurra di pallanuoto maschile, per essere stato il nostro ospite oggi a bordo campo. Grazie a te e a tutti i vostri ascoltatori. A bordo campo. sport italiano che è alla ricerca di nuovi quadri dirigenti, lo vediamo e come se lo vediamo nel calcio, ma questa rivoluzione, questo cambiamento, questa svolta generazionale c'è in tutto lo sport italiano che sta cambiando pelle, piano piano emergono nuovi protagonisti, nuovi magari volti noti chiamati però a diversi ruoli di responsabilità. Ebbene, di questo oggi parliamo qui a Bordo Campo, anche di questo parliamo oggi con un ospite d'eccezione, amico di Radio 24 e anche neo presidente dell'Automobile Club Milano, di fatto l'Automobile Club cui fa capo Monza con tutto quello che vuol dire la Formula 1, il Gran Premio, la grande passione degli italiani. Beh, avete capito che c'è dall'altra parte della cornetta del telefono, benvenuto a Ivan Capelli. Salve, salve. Allora, Ivan Capelli, 51 anni, ex pilota della Ferrari, commentatore anche per la RAI del Mondiale di Formula 1. Beh, oddio Ivan, posso darti del tuo o devo chiamarti presidente? No, non ci sono ancora abituato a presidente, quindi è meglio darsi del tuo. Bene, allora manteniamoci sull'informale, ma parliamo di cose serie, perché recentemente la tua lista Sport e Rinnovamento ha vinto le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione dell'Automobile Club Milano. Di fatto sei entrato nella stanza dei bottoni dell'Automobile Club più importante d'Italia. Direi che ci sono più bottoni lì che su un volante di un pilota di Formula 1, no Ivan? Sì, pareteticamente diciamo che sul volante di Formula 1, se oggi ci sono circa 36-38 bottoni in una stanza da presidente come Automobile Club Milano, ce ne sono più o meno lo stesso numero, perché si vanno a toccare tantissimi tasti, ovviamente lo sport in primis con l'autodromo di Monza e poi comunque con la città di Milano, che vuol dire il rapporto con le istituzioni, con la viabilità che deve essere comunque un punto fermo da poter controllare e da poter così interagire anche con gli utilizzatori ovviamente della città, coloro che utilizzano la vettura, ma anche a quelli che magari non sono in automobile ma comunque fanno parte del traffico, mi riferisco ovviamente anche ai ciclisti, per dire, per cui non è una cosa facile, devo dire che è un'avventura che è iniziata con grande entusiasmo, non sono da solo ovviamente, ma c'è tutta la lista 1 che è stata votata in gruppo, quindi tutti e quattro siamo passati, sto citando ovviamente me stesso, poi Marco Coldani, Pietro Meda ed Enrico Radaelli, e questa è la cosa più bella, cioè il fatto che abbiamo avuto il consenso generale, vuol dire che c'è voglia veramente di rinnovamento. Ecco, interessante questo aspetto che già sottolineavi del fatto che un pilota di Formula 1 si trova un po' a scalare le marce e a fare i conti in questo nuovo impegnativo ruolo anche con un concetto di viabilità molto più esteso, no? Rispetto a quello relativo a circuiti, tempi, coppe e velocità estreme del massimo campionato mondiale, no? Ti ci trovi un po' in questi panni nuovi? Ma guarda, io ho lavorato per tanti anni con diversi marchi italiani sul discorso sicurezza, ero direttore dei corsi di guida anni fa, ho svolto tutto un percorso andando a toccare con mano quello che era la percezione della sicurezza dell'utente finale, anche se dedicato magari a macchine di un certo livello, le supercar come vengono definite, ma ho avuto anche esperienze con le vetture, le utilitarie diciamo così di tutti i giorni, e quindi comunque sono consapevole di quanto la sicurezza sia fondamentale, non soltanto per chi corre in macchina e lo fa di sport, lo fa di professione in un autodromo, ma specialmente in una città che vive ogni secondo, diciamo così, ha il rischio di trovarsi in una situazione di pericolo per quello che è la concitazione che c'è nel traffico cittadino. Quindi è sicuramente una svolta nuova anche nella mia veste, diciamo così, di esperienze che sto vivendo. Dicevamo, Milano però vuol dire soprattutto Monza, vuol dire Formula 1 di altissimo livello, vuol dire un gran premio rispetto al futuro del quale recentemente Bernie Ecclestone ha adombrato delle nubi, no? Ha detto o Monza cambia, e soprattutto per il buon Bernie vuol dire garantisce un maggior gettito di introiti, perché lo sappiamo, il personaggio è un grande appassionato di motori ma anche di dollari, oppure c'è il rischio che Monza possa uscire dal calendario della Formula 1. È un rischio credibile oppure Bernie Ecclestone sta un po' calcando la mano per raggiungere i suoi obiettivi? Allora, ci sono dei punti fermi. Il punto fermo principale è che il contratto in essere è fino al 2016, quindi stiamo parlando di un rinnovo che partirà dal 2017. Quindi da questa edizione, le prossime due, il Gran Premio d'Italia ci sarà a Monza. Poi Bernie lo conosciamo, lavora molto d'anticipo, lancia il sasso nello stagno e aspetta di capire qual è il rimando che può avere, gioca molto su questa sottile, diciamo così, trattativa che si fa con largo anticipo, perché parliamo del 2017 in poi. È ovvio che lui vuole sempre capitalizzare da subito i suoi contratti, ha chiuso con l'Azerbaigian, ha chiuso con il Messico per quanto riguarda le gare future. È comunque un mondo sempre in movimento. Monza da parte sua ha comunque la storia, ha il fatto di essere uno dei pochi Gran Premi che c'è sempre stato, tranne un'edizione che è stata svolta ad Imola. È un Gran Premio che ha un fascino particolare sia per i piloti sia per il pubblico. Molte gare di Formula 1 non presentano il pubblico sulle tribune perché non ce n'è, specialmente in Asia. Da noi invece abbiamo le tribune piene. Negli ultimi anni poi la Ferrari, che ha sempre combattuto per il campionato del mondo con Fernando Alonso, ha portato sicuramente tanto pubblico a Monza. È una sottile schermaglia, diciamo così, per poter arrivare poi al rinnovo, che dal mio punto di vista arriverà con forme diverse, con presupposti diversi, perché il mondo, anche in questo senso, nel motorsport, sta cambiando dal punto di vista commerciale. E quindi secondo me arriveremo al rinnovo, non da subito, perché ci deve dare modo il signor Ecclestone di comunque guardare all'interno dei contratti, che non sono semplici, questo te lo posso assicurare. Sì, ma detto questo, c'è il presupposto anche di avere persone importanti e di esperienza come Stefano Domenicali, che mi piace citare perché è un grande amico, che si è detto disponibile a qualsiasi tipo di consulenza, sua, diciamo così, introduzione all'interno del sistema per poter arrivare a questo rinnovo. Quindi abbiamo supporto di persone che sono anche valide per riuscire ad interloquire con Ecclestone nelle dovute maniere. Quindi insomma confermi il fatto che Domenicali potrebbe far parte della squadra. Si è parlato in questi giorni, anche in queste settimane, come eventuale direttore del circuito. Mi rendo conto che quella posizione potrebbe essere un po' riduttiva per Stefano, perché ha sicuramente tantissime altre offerte. Certo. Però la cosa importante, che mi ha ripetuto in diverse occasioni, anche personalmente, che lui per Monza ci sarà sempre, in ogni caso. Io ci credo, perché Stefano è un amico, siamo entrati in Ferrari insieme nel 91, con due storie diverse, perché io sono stato lì un anno solo, lui c'è stato ben 23 anni, però lo reputo una persona assolutamente seria e che può sicuramente dare un apporto importante a questa trattativa. Rimane il fatto che forse però le potenzialità del circuito di Monza rimangono ancora inesplorate per tanti aspetti, no? Si è parlato anche dell'ipotesi che possa arrivarci la MotoGP, che sarebbe un altro bel colpo. In questo senso è un'idea percorribile, Capelli? Ma a piccoli passi si potrebbe arrivare anche a solleticare il desiderio della MotoGP di ritornare. A me basterebbe anche poter riacquisire la Superbike, per esempio, che negli anni scorsi c'era e che poi è andata perduta. Per cui bisogna ricominciare a trovare un calendario che sia un calendario appropriato alla storia di Monza. Le moto sicuramente sono un punto importante del cammino che l'autodromo ha fatto nel corso degli anni, e immagino che andando a riprendere la Superbike che praticamente è gestita ancora una volta da Dorna, tanto per chi non è, diciamo così, addentro ai lavori, e quindi si potrebbe sicuramente in futuro almeno fare una proposta, poi bisogna vedere se appunto la Dorna stessa andrà ad accettarla. Certo, intanto comunque si tratta sempre con lo stesso soggetto, quindi tutto sommato uno dei due pacchettini potrebbe darle il regalo, cioè il regalo, poi ci siamo capiti. Tutto è possibile quando la pista, l'autodromo diventa competitivo. Oggi sicuramente manca un calendario appropriato, manca soprattutto la possibilità di far lavorare l'autodromo 365 giorni all'anno, che non siano legati solo ed esclusivamente alle corse, ma che si possa inventare anche altre manifestazioni collaterali. Sappiamo benissimo che l'Expo è presente nel 2015 e Monza presenta, l'autodromo presenta un asset importante all'interno di quello che sono i punti di riferimento di Monza, come la Villa Reale, che è attigua alla pista e al parco stesso, la Confindustria con Monza Brianza, con Andrea Dell'Orto, che diventerà presidente della SIAS, ha ben presente anche questa possibilità. Presidente Capelli, beh, permettimi appunto di chiamarti con la nuova carica. Qualcuno ha anche sollevato, e andiamo a chiudere questa nostra chiacchierata, una possibile conflitto di interessi, perché ti troverai a commentare un Gran Premio di Monza in questo nuovo ruolo, no? di presidente dell'Automobile Club Milano, quindi di fatto chi lo organizza lo commenta anche, no? Tramite i microfoni della RAI. Cosa rispondi a chi ti ha punzecchiato in questo modo? Che io ho sempre lavorato in maniera molto professionale da quando sono arrivato in Rai. Io sono uscito dalla Ferrari, come sai e come sanno gli appassionati, non benissimo, perché ho vissuto soltanto un anno all'interno del team di Maranello, però anche quando sono diventato commentatore appunto dei Gran Premi di Formula 1 per la Rai, non mi sono mai permesso di togliermi qualche sassolino dalla scarpa. E in ugual misura dico che quando ci sarà il Gran Premio di Monza io lo commenterò come pilota, come commentatore tecnico. Sarà poi la prima voce, Gianfranco Mazzoni, a commentare quello che sarà il risultato del Gran Premio. Io sarò felice sicuramente di commentare tutti i tifosi che andranno sotto il podio, quello sì, perché un'altra cosa unica di Monza è il podio che è a sbalzo sulla pista, non c'è da nessun'altra parte al mondo, i piloti lo sanno e quando vivono quell'esperienza ti assicuro che sono emozionati, me l'hanno detto in tanti ragazzi, quando vanno a Monza arrivare sul podio è qualcosa di particolare, e tutto sommato un po' l'invidio. Primo, perché non ci sono mai arrivato sul podio di Monza quando correvo in Formula 1, e secondo perché quando hai quella folla sotto i piedi che ti saluta e ti dà modo di capire che cosa vuol dire correre a Monza, beh, è un'emozione che sicuramente è unica al mondo. Ivan Capelli, allora in bocca al lupo per questo nuovo importante impegno e grazie per essere stato oggi il nostro ospite qui a Radio 24 e a Bordo Campo. Grazie a voi. Per A Bordo Campo di oggi è tutto, un grazie a Roberto Scaltritti in regia. Vi ricordo che potete riascoltarci dal nostro sito internet www.radio24.it, anche in podcast, dialogare con noi attraverso il blog di A Bordo Campo e scriverci all'indirizzo mail abordocampo@radio24.it. A Bordo Campo torna come sempre domenica prossima alle 16.30 e in replica il sabato mattina alle 6.15. Ancora una buona giornata da Dario Ricci.